21 marzo del 2013, 87.900, la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa dal 1977, senza padrini, senza padroni. La radio è di chi se la sente. Chi se la sente può contribuire a farla vivere, ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 61804001, da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volci 56, 00185, Roma. Oppure consultando il sito della radio www.ondarossa.info. Sulla home page c'è la modalità sostieni e troverà la modalità PayPal. Bene, cominciamo a visionare l'appuntamento settimanale con il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15 con qualche minuto di anticipo, perché abbiamo un ospite in più. Comunque, per saperne di più, la scaletta di quest'oggi la trovate sul sito della radio alla voce trasmissioni visionari, gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 20 marzo. Poi suggerimenti 21 marzo, scusate, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra festival, rassegne e proiezioni. Poi il link che rimanda alla puntata precedente e all'archivio del 2013 e del 2012. Per comunicare con noi, per gli sms in diretta, il numero è 342-357-4357, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. C'è anche la pagina Facebook di Visionari. Allora, è con noi Giovanni Columbu, regista di Zurre, che è in uscita oggi in Sardegna e giovedì prossimo, della prossima settimana, il 28 marzo, in continente. Ciao Giovanni, come va? Salve, eccomi qua, sì. Appena rientrato. Sì. Allora, sì, io l'ho appena visto stamattina, c'era l'anteprima stampa nuovo Sacher qui a Roma, dove sarà in programmazione. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo un po' di questo progetto, Zurre. Sì, è un racconto che è tratto dal Vangelo, anzi dai quattro Vangeli, quelli di Matteo, di Marco, di Luca e di Giovanni, e poi trasformato in una sorta di sogno, ovvero tutto è ambientato altrove, in questo caso in Sardegna. Questo perché certamente la Sardegna si adattava molto, e poi la Sardegna è un po' il mio teatro d'elezione per quanto riguarda le cose cinematografiche, direi in generale perché è un altro luogo, e questo sta a dire che noi possiamo ritrovare la storia di Gesù ovunque, anche tra noi, in un luogo diverso da quello storico. Senti Giovanni, l'idea di questo di questa messa in scena, insomma, dei testi dei quattro evangelisti, come nasce, come viene fuori? Nasce dal mio incontro col Vangelo, o meglio l'incontro da adulto, perché anch'io naturalmente da ragazzino così ho fatto un po' di catechismo, ma altra cosa è riscoprire questo testo successivamente, come è successo a me, e per me devo dire che ritrovarlo e leggerlo è stato un motivo di grande coinvolgimento e commozione. Mm-hmm. Leggendo il Vangelo ho ritrovato me stesso e ho trovato tanti motivi che mi sono sembrati bellissimi e importanti per tornare a raccontare questa storia. Mm-hmm. Giovanni, allora partiamo dal punto di vista stilistico. Girato in lingua sarda, sottotitolata in italiano, luce naturale, niente trucco, dei non attori, immagino, protagonisti, certo, della scena, vestiti in abiti tradizionali o con panni poveri, delle poche unità di luogo, e insomma mi sembrano delle scelte stilistiche molto precise. Sì, certo, la scelta, l'idea è quella appunto di trasporre, e quindi una trasposizione riguarda naturalmente i luoghi, quindi i paesaggi, le architetture per quel che intervengono, riguarda forse ancora di più le figure umane e naturalmente riguarda anche la lingua. Io più volte ho pensato, sia pure così per paradosso, se i quadri dei pittori rinascimentali che fecero esattamente questo tipo di operazione, perché se noi andiamo a rivedere le opere del 300, del 400 e del 500 europeo, scopriamo che la Palestina non compare mai. Ora, in quei quadri invece compaiono i paesaggi che erano dei luoghi a cui appartenevano quegli artisti e anche le figure che si vedono, le figure umane, sono tutte vestite con gli indumenti di quei luoghi. Ecco, se quelle figure, se non si fosse trattato di pittura, non c'è ombra di dubbio che nelle diverse parti d'Europa quelle figure, se avessero potuto parlare, avrebbero parlato la loro lingua. Questo quindi la lingua diventa un complemento, e d'altra parte è un complemento molto importante dell'identità. Il passaggio da una lingua all'altra non significa soltanto, come dire, passare da un complesso di parole a un complesso di altre parole che hanno il valore di sinonimi. No, quelle stesse parole tradotte in un'altra lingua assumono un tono nuovo. Ecco, il sardo è una lingua molto asciutta, scandita, forte, giocata su pause di silenzio e poi irruzioni brusche. Ecco, tutto questo, ad esempio, conferisce un tono anche di ruvidità e in certi casi di violenza che è proprio quello che è dato in questo caso dalla trasposizione. Sì, infatti ci torneremo sopra. Dal punto di vista invece dei testi e del significato, c'è molta attenzione per esempio alla preoccupazione degli apostoli su chi è il traditore nel momento, certo, dell'ultima cena. Poi l'ultima cena è rappresentata quasi come un incubo, in un certo senso, perché l'ultima cena, se ci pensiamo, ha momenti meravigliosi, commoventi, il momento in cui Gesù trasmette il cosiddetto ultimo comandamento, quando dice amatevi come io ho amato voi, ma per il resto l'ultima cena è in certa misura un momento angosciante e fortemente drammatico, perché Gesù annuncia il traditore e tutti gli apostoli temono di essere loro i traditori, forse perché, e questo ha anche questo valenza universale, in ognuno di noi c'è un sentimento di fedeltà, ma anche esiste in ognuno di noi anche un potenziale traditore. Ecco, sì, quindi sono figure che evidentemente poi si affacciano anche nella dimensione interiore. Sì. Poi non solo quello, la cattiveria dei sacerdoti, il momento poi della crocifissione, che urlano che non è una persona che fa miracoli e che metteva in testa alla gente idee pericolose. Insomma, un film sulla passione di Cristo, ma anche delle altre figure, per esempio il travaglio di chi lo tradisce, di chi lo rinnega. È un film molto, molto cupo, in cui però ho visto anche come due poli, nel senso c'è anche una forte rappresentazione della violenza e poi ci sono, come dicevi prima, parlando appunto di violenza, ma anche dei lunghi silenzi, dei primi piani insistiti, insomma sembra proprio due momenti antitetici messi insieme. Sì, è vero, sono antitetici, o meglio, sono due momenti che, combinandosi assieme, danno un certo tipo di effetto, che è quella della tensione che ogni tanto irrompe in un'azione violenta. Così un po' come anche nel modo, anche nelle, così come avviene anche nelle parole, nel modo di parlare, sì, esatto, dei personaggi. Sì. La violenza, peraltro, sì, c'è, però non è una violenza che si possa dire esibita o volta così a suscitare compiacimento. È una violenza che io credo semmai alimenti un un desiderio di giustizia. Ecco, quindi forse è questa, a mio parere, la differenza in cui si può incorrere nella rappresentazione della violenza. Un conto è fare spettacolo della violenza, magari per soddisfare anche un interesse o una curiosità più o meno morbosa nei confronti di tutto quello che produce sofferenza e dolore, e altra cosa è mostrare la violenza che è nella società e soprattutto nel potere che non tollera nessuna forma di dissidenza. Gesù è sostanzialmente un dissidente, mette in discussione la dottrina e il potere. E la ricchezza, sì. Denuncia l'ipocrisia del potere, i sepolcri imbiancati, il tempio trasformato in luogo di mercato. E quindi il potere si esprime con una violenza che non ammette eccezioni. Sì, sì. Chi dissente deve essere colpito. Però ecco, anche nel film questa rappresentazione, che è terribile perché poi si accompagna al cinismo, che anche questo è purtroppo un tratto umano terribile, però non è esibita, ecco, e quindi credo che susciti nello spettatore un sentimento che è un'esigenza, come dicevo, di giustizia. Sì. D'altra parte, questo sentimento è anche testimoniato in diversi momenti. La stessa madre di Gesù, quella che vediamo all'inizio e alla fine, che piange sul corpo del figlio morto nel sepolcro, ad esempio, quando di fronte a Pilato c'è la folla e ci sono i sacerdoti che invocano la morte di Gesù e dicono quella frase, poi contestata per altri motivi che ora certamente non possiamo considerare, che è quella: se il suo sangue innocente ricada su di noi. Ecco, Maria dice è innocente, e quindi implicitamente afferma un principio di giustizia. Mm-hmm. Giovanni, nella scheda di presentazione vedevo accreditato anche il centro di salute, un centro di salute mentale. Sì, mm-hmm. Sì, infatti io ho scoperto casualmente i pazienti o ospiti in certi casi delle case di salute mentale che ci sono vicino a Cagliari. E ho scoperto che queste persone apparentemente mute o chiuse in se stesse e apparentemente insensibili, invece avevano una grande, meravigliosa sensibilità che mi ha affascinato, mi ha commosso. E così è nata l'idea che anche loro potessero prendere parte al film interpretando proprio la parte di quei poveri a cui si rivolge Gesù. Noi li vediamo nel film che condividono la sofferenza di Gesù, la condividono a modo loro, senza agitarsi, senza dire niente, la condividono interiormente. Anche in questo, così come nello stile, così come nella formula produttiva, così come nel ritmo, così come nell'assenza di musica, il film, mettendo al centro i poveri o i poveri come contrappunto del potere arrogante, può dirsi francescano, può dirsi, diciamo, e si scopre oggi, anche senza che questo fosse prevedibile, così in sintonia con questa stagione che speriamo abbia il migliore seguito, che è stata annunciata da Papa Francesco. Mm-hmm. Giovanni, allora, da oggi in Sardegna, da giovedì prossimo invece in tutta Italia, Zure, sì. un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie a voi. Bene. A risentirci magari presto. Certamente. Ciao, d'accordo. Giovanni. Ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao. Giovanni Columbu, regista di Surre. È con noi Marco Reale, regista del film Fair Play. Sei disposto a fermare il gioco che è in uscita oggi, giovedì 21 marzo, gratuitamente sul sito fairplaymovie.org. Marco, intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi per avermi ospitato. Mi era arrivata questa mail, ho dato un'occhiata alla tematica, ho detto perché no, parliamone. Allora, raccontaci un po' di questo progetto. Allora, il progetto è giovanissimo, nel senso che è nato a fine novembre dalla voglia di riuscire a fare qualcosa, perché la situazione in Italia credo la sappiano tutti, è inutile ribadirla, e siccome sono convinto che le cose partono dal basso, mi sono detto ok, vediamo di fare qualcosa invece di lamentarci e basta. Così è venuta in mente l'idea del film, poi ci siamo detti ma un film da solo che cosa può fare? Al massimo può accendere la voglia di fare qualcosa, e così abbiamo inventato tutto questo ambaradan, film dentro il sito, dove nel sito successivamente a stasera inizieranno ad essere implementate delle testimonianze, ognuno può partecipare, si può fare aggregazione, insomma, di tutto quello che può servire come aiuto personale proprio dal basso. Allora, partiamo dalla storia. Sono alcune storie che si incontrano nel film. Dici un po' di cosa si tratta, quali sono i racconti che hai scelto per questa storia? Ho scelto purtroppo delle storie italiane vere, per quello che sto scoprendo, speravo di aver scritto delle cose di fantasia, invece sono più che altro vere, e sono quattro storie tipicamente italiane di questo periodo, nel senso di un padre di famiglia che si ritrova con una raccomandata di Equitalia non proprio bellissima, anzi diciamo parecchio brutta, dove vorrei far notare che non è giusto o sbagliato il fatto che Equitalia prenda i soldi, ma è la modalità che è sbagliata, dove si considerano le persone non delle persone ma dei numeri da contattare, e questo secondo me è pesantemente sbagliato. Dopodiché abbiamo una ragazza madre che si ritrova con il problema del non riuscire ad avere un lavoro qui e dover campare con una bambina di 6 anni, si ritroverà in una storia che non vi dico perché altrimenti uccidiamo il film, sì. E poi invece un'altra coppia tipicamente purtroppo italiana anche questa, dove c'è un grosso problema con il mutuo della casa e quindi la banca ci mette su un'ipoteca, e si parla di sindacati che non fanno quello che dovrebbero fare, e quindi il singolo è costretto a doversi fare rispettare a modo proprio. Mm-hmm. Allora, hai detto che le hai scritte e poi hai scoperto anche che sono drammaticamente reali. Ecco, per trovare delle storie simbolo, un po' simbolo, che tipo di lavoro hai fatto rispetto alla cronaca? Ho guardato in giro, più che fissarmi sulla cronaca vera e propria dei giornali, è stato un vedere intorno che cosa ci fosse, e mi sono ritrovato a mettere insieme delle nozioni che davano poi storie di persone che conosco, magari come il padre di una mia amica che ha avuto più o meno la stessa storia del padre di famiglia che c'è nella prima storia, oppure affrontiamo un certo punto, purtroppo molto velocemente perché non è possibile parlare, certo, di tutta la situazione, certo. Affrontiamo anche un po' il problema delle università in Italia, quindi del fatto che magari c'è chi le fa per bene, chi non le fa per bene, e chi le fa per bene esce e non trova lavoro perché non c'è, perché siamo troppi, perché c'è un po' di problema veramente in giro su quello che riguarda il lavoro e tutto il resto, è un sistema che è malato e si può risolvere solo dal basso. Quindi in realtà è questo, ho guardato veramente, cioè nel momento in cui ho deciso di fare qualcosa ho aperto gli occhi e sono andato a vedere se c'era qualcos'altro oltre il raggio del mio naso, e mi sono accorto che ci sono realtà migliori o peggiori della mia, ed è il caso di guardarle. Immagino che sia un film realizzato a bassissimo costo. Siamo sui 150 euro. E quindi c'è il contributo anche di tutti quelli che hanno chiaramente partecipato, a partire dagli attori fino ai tecnici. Esatto. Ecco, le modalità invece per, dicevi, di questo sito internet dove oltre a vedere il film è possibile anche contribuire portando storie, ecco, con quali sono le modalità? Allora, le modalità sono il tenere lo slogan di tutto il progetto, che è metterci la faccia. Quindi noi ricerchiamo proprio persone che abbiano, visto che ormai la modalità YouTube è insita in noi, c'è un sacco di gente che fa filmati su qualunque cosa ormai, quindi non è più un mostro che non sappiamo affrontare. La nostra idea è quella di avere delle persone che, anche con la webcam, a noi servono le persone, non le cose fatte bene, registrano un filmato sulle cinque tematiche che possono ovviamente aumentare. Noi abbiamo pensato a cinque testimonianze possibili, ma in realtà possono aumentare a seconda se c'è bisogno di qualcos'altro. Mm-hmm. E quindi dare il proprio apporto sia come richiesta di aiuto sia come offerta di aiuto. Ad esempio, noi a breve caricheremo su una testimonianza di uno studio di avvocati che ha deciso di dare il venerdì pomeriggio come pomeriggio possibile per gli appuntamenti con chi si presenta a nome della comunità Fair Play, e a quel punto innanzitutto dare un consulto gratuito. Poi se il problema è di poco conto e si può risolvere con una telefonata, lo risolvono senza farsi pagare nulla. Nel caso in cui invece il problema fosse più grave, quindi c'è bisogno proprio di tutto l'iter burocratico e legislativo italiano, a quel punto lo farebbero comunque con uno sconto rispetto al tariffario. Mm-hmm. Questo per noi è l'esatta idea dell'aiuto persona a persona. Bene, bene. Bene Marco, allora, visto che comunque è un progetto in divenire, avremo modo probabilmente di risentirci più in là, seguendo un po' gli sviluppi. Va bene? Assolutamente. Ricordiamolo. Perfetto. Allora, che Fair Play, sei disposto a fermare il gioco in uscita oggi gratuitamente sul sito fairplaymovie.org e poi ci resterà fino a che su YouTube ci permette di restarci, quindi possono vederlo quando e come vogliono. Bene. E allora un abbraccio e a risentirci presto. A te, grazie. Ciao Marco. Ciao, ciao. Marco Reale, regista di Fair Play, sei disposto a fermare il gioco? Per gli SMS in diretta 342-357-4357 e l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Peter Marcias, regista di Dimmi che destino avrò, uno dei film che fa parte della rassegna itinerante del Cinema del Reale dal titolo L'Italia che non si vede, è partito il 28 febbraio. Si tratta di 10 film che attraverseranno 10 città italiane. Peter, intanto benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Grazie, grazie a voi, ciao a tutti. Allora, raccontaci un po' la tua storia, il film che hai realizzato e che fa parte insomma di questa rassegna. Sì, allora il film parte innanzitutto da una sceneggiatura di Gianni Loi, che è un grande studioso e appassionato di cultura rom, però poi il film sono immagini, dunque lì è subentrata la produzione di Gianluca Arcopinto, che è uno dei produttori e distributori indipendenti forse più come dire bravi e interessanti del panorama italiano. Sì, ogni tanto è il nostro ospite. È un film che parla di incontro, scontro tra culture, tra quella dei gagè, cioè i non rom e i rom. Abbiamo ambientato a Cagliari perché comunque ci piaceva anche la dimensione dell'isola, di come anche come viene trattato il tema. È comunque una storia di una ragazza che è vissuta nel campo rom di Cagliari, però è partita in Francia per lavoro e poi ritorna. Dunque un po' è un'indagine sul ritorno e sul capire cosa è successo su questa persona. Mm-hmm. Senti, perché la decisione di raccontare questa storia? Dove nasce questo tuo interesse? Ma guarda, come ti ho detto, è partito da questa sceneggiatura soggetto. C'era già una sceneggiatura, sì. Allora, diciamo più che sceneggiatura, un'indagine. Mm. Poi man mano è venuta fuori una sceneggiatura, e perché mi ha colpito molto questa realtà che non conoscevo neanche io. In effetti, per chi ha visto il film e per chi lo vedrà, io ho fatto un po' lo stesso percorso che fa il commissario nel film, che è interpretato da Salvatore Cantalupo, che è un attore napoletano abbastanza conosciuto e che come dire, fa un percorso particolare, cioè inizia con un incontro dove conosce la famiglia della ragazza, di questa Alina, interpretata da Luri Bitri, come primo incontro gli viene offerto un caffè preparato alla turca dagli abitanti, dunque un po' un primo passo verso, come dire, l'incontro tra due culture diverse. Tra l'altro è il terzo film di cui parliamo oggi e il secondo sardo dopo dopo Sul Re di Giovanni Columbu. Ci sei, sì, anche che io sto sponsorizzando su Facebook, perché ho visto, a parte che siamo stati al Festival di Torino insieme, lui era in concorso, io ero nella sezione della Festa Mobile, è un grandissimo film, esce oggi in Sardegna, poi la settimana prossima sul nazionale. Sì. Senti Peter, come, avvicinandoti alla realtà rom, cosa hai scoperto di interessante rispetto a quanto non conoscevi? Ma guarda, in realtà nulla di chissà che particolare, cioè loro vivono praticamente come noi siamo in delle case così eccetera, loro vivono magari in delle baracche anche costruite in legno, ma sono la cosa che forse mi ha colpito di più è la loro naturalezza, la loro anche voglia di stare insieme e di, come dire, di parlare, di discutere. Mm-hmm. Cosa che a noi un po' manca, a volte noi non conosciamo neanche il dirimpettaio di fronte a casa, e invece loro stanno lì a chiacchierare, a discutere anche tutto il giorno, c'è un po' il senso della comunità ancora molto forte, che a noi scoprendo per il fatto che siamo molto forse super tecnologici e andiamo molto sul computer a cercare la comunità, no? Un vis-à-vis tra, diciamo, tra loro, dunque forse quella è un po' la cosa che mi ha colpito di più. Mm-hmm. E ho capito anche la spontaneità dei bambini, un film anche che parla di bambini rom che sono nati in Italia e non hanno la cittadinanza per una questione, per delle leggi europee tanto, come dire, giuste, dunque su cui l'UNICEF e tanti altri si stanno battendo, infatti quel film è sostenuto anche dall'UNICEF. Mm-hmm. Senti Peter, il tuo film all'interno della rassegna, appunto, che dicevamo all'inizio, l'Italia che non si vede, ha la possibilità di attraversare 40 città, quindi una bella circuitazione. Raccontaci un po' di queste delle prossime date, se esiste anche un vostro sito internet che indichi le date di proiezione, i luoghi. Sì, il film, dopo che è passato al Festival di Torino lo scorso novembre, poi è uscito in sala grazie alla Pablo di Gianluca Arcopinto, poi è stato su Repubblica, poi questa bella iniziativa L'Italia che non si vede, che comunque man mano in questi giorni anche io scopro aggiornando con il sito dell'Arciuca eccetera tutto, però abbiamo la pagina Facebook Dimmi che destino avrò, che mette tutte le informazioni sulle date italiane e internazionali. Proprio questi giorni ci hanno comunicato che, oltre alla bellissima iniziativa L'Italia che non si vede, il film sarà presente in concorso al Festival al Cinema Italiano Visto da Milano, farà un tour in Portogallo, farà il Festival di Busto a Sizio e tanti altri festival, dunque è un buon momento anche per il film, per un certo tipo di cinema che, come dice il tema della rassegna, l'Italia che non si vede, qualcosa che non si vede ma che grazie a queste iniziative riesce a vedersi, diciamo. Bene, allora un abbraccio, un in bocca al lupo Peter, grazie, e magari ci si sente per le prossime novità. Grazie mille, grazie a voi. Ciao Peter, ciao. Ciao, buona giornata. Peter Marcias, regista di Dimmi che destino avrò, all'interno della rassegna itinerante del cinema del reale L'Italia che non si vede. Dal 28 febbraio 10 film in 10 città italiane. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Allora, abbiamo il nuovo direttore del Festival di Locarno, Carlo Chatrian, per parlarci della manifestazione L'immagine e la parola, che si terrà a Locarno e a Monteverità ad Ascona dal 24 al 27 marzo. Carlo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, L'immagine e la parola, l'incontro tra letteratura e cinema, in che termini, Carlo? Raccontaci un po' di questa iniziativa. Ma la sfida era proprio quella di andare un po' oltre il diciamo così, il rapporto consueto tra cinema e letteratura, quindi il punto di partenza che avevo deciso di prendere era quello di parlare proprio di come l'immagine e la parola, due strumenti espressivi straordinari che l'uomo ha creato, arrivano a nutrire le visioni di immagini e suoni in movimento che il cinema produce. Quindi non solo film tratti da romanzi famosi, più o meno famosi, ma anche film per esempio che partono da immagini, dai quadri, come L'arca russa di Sokurov, o film che prendono spunto da una parola poetica, come il caso di Ali agli occhi azzurri di Giovannesi, che prende spunto appunto da una poesia di Pasolini. Allora, l'ospite sarà Aleksandr Sokurov, l'ospite insomma principale di questa rassegna, ma che prevede anche importanti altre presenze. Sì, Sokurov è sicuramente il nome più conosciuto, ricordiamo che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia con Faust, una sfida enorme, a mio modo di vedere vinta, di mettere in scena in un film il mito di Faust, quindi non solo il romanzo di Goethe. Però attorno a lui ci sono presenze per noi importanti come i registi italiani Paolo Benvenuti e Salvatore Mereu, o anche un omaggio ad Antonio Tabucchi, che è scomparso proprio un anno fa, proprio il 25 marzo, ad un anno della sua scomparsa, dedicheremo un ricordo a lui facendo vedere un film di un regista svizzero, Alain Tanner, e il film si chiama Requiem. E l'ultimo ospite è un ospite svizzero, il festival si tiene in Svizzera, ed è un regista molto coraggioso, appartato, che sta facendo un film tratto da un libro che si chiama Homo Faber, e ce ne verrà a parlare, il regista si chiama Richard Dindo. Oh, ecco, proprio a proposito di film tratti da letteratura, è un rapporto questo piuttosto stretto e anche bilaterale che stiamo incontrando diverse volte sul nostro cammino ultimamente, c'è molto interesse verso queste due discipline artistiche e la loro fusione. Ecco, cosa ne pensi tu in proposito? Ma ci sono due correnti di pensiero. Da una parte c'è la famosa frase di Truffaut per cui i migliori romanzi da adattare al cinema sono quelli di bassa lega, quelli che si trovano alla stazione, dove appunto mi trovo io in questo momento. E dall'altra parte però appunto ci sono casi illustri come appunto Sokurov, che prende il Faust di Goethe e ne fa un'opera straordinaria, o anche altri registi, o recentemente come avete detto diversi sono gli esempi di film tratti da romanzi importanti o più o meno importanti che hanno successo. È proprio in questa stagione, mi viene in mente Noi siamo infinito, che è una rilettura originale, tra l'altro fatta dallo stesso scrittore del romanzo in termini cinematografici. Senti Carlo, allora ripetiamo anche gli appuntamenti dal 24 al 27 marzo in due località, Locarno e Monteverità ad Ascona, e per il Festival di Locarno avremo modo anche di risentirci perché è ad agosto e magari lo presenteremo quando sarà il momento. C'è un sito internet per vedere più nel dettaglio il programma dell'Immagine e la Parola? Assolutamente, allora semplicemente ricordando che le proiezioni si svolgono a Locarno, mentre le tavole rotonde, gli incontri, gli atelier si svolgono ad Ascona, sì. Il sito è www.pardo.ch e ci sono tutte le informazioni al riguardo, il programma completo, gli eventi e anche come assisterli. Tra l'altro questa è una prima manifestazione di un festival di Locarno che insomma, come diversi altri festival, si spargono la propria programmazione durante tutto l'anno al di fuori del festival, giusto? Sì, forse la parola spazio è tanto bella, insomma, però sì, l'idea è comunque di far vivere il festival da 10 giorni, di confrontarsi con il territorio che lo ospita e che lo nutre in qualche modo, quindi sì. È una prima esperienza. In realtà Locarno durante l'anno ha incontri abituali con i cineclub e rapporti con i cineclub e col territorio, però questa è veramente la prima volta che abbiamo una manifestazione coerente che per 3 giorni proporrà qualcosa che tra l'altro durante il festival non si può fare, perché avremo un ritmo più rilassato, possibilità di parlare del cinema in modo diverso. Bene, allora un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi. Ciao Carlo. Carlo Chatrian, il nuovo direttore del Festival di Locarno, per parlarci della manifestazione L'immagine e la parola. Ripeto, una manifestazione che si tiene a Locarno, a Monteverità, ad Ascona, dal 24 al 27 marzo prossimi. In collegamento con Lorenza Soldani, che insieme a Ingrid Lammimpa stanno dando vita oggi al progetto di documentario in crowdfunding Lei disse sì. Benvenuta a Visionari su Onda Rossa. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. C'è anche Ingrid. Bene, siete in due. In viva voce, benissimo. Allora, come nasce questo progetto? Raccontateci un po' cosa c'è dietro. Allora, noi ci sposiamo. Dietro il progetto c'è un matrimonio. Io e Ingrid siamo insieme da 7 anni. Abbiamo deciso di sposarci e visto che in Italia non possiamo sposarci, andiamo in Svezia. Da dove proviene una parte della famiglia di Ingrid, per cui possiamo farlo visto che lei ha la cittadinanza svedese. E niente, abbiamo deciso di fare questo blog che è www.leidissesi.net e anche una pagina Facebook per raccontare i preparativi del nostro matrimonio che sarà il 21 giugno, e appunto vogliamo, come diciamo sempre, dimostrare che anche le coppie omosessuali sono pronte per affrontare lo stress del matrimonio. Lo stress del matrimonio è buono. Senti Lorenza, ecco, proprio questa idea, perché comunque è un'assurdità tutta italiana, ma non solo, quella di creare questa differenziazione dei diritti, però il pensiero mi va subito ai grandi movimenti di protesta degli anni 60 e 70 che mettevano in crisi, oltre al concetto di Dio padre, anche quello di famiglia. E quindi suona un po' strano questo concetto del matrimonio, che però nell'ottica appunto di una conquista di un diritto che gli altri hanno, cioè un'altra parte della comunità ha, insomma, mi sembra del tutto legittimo. Sicuramente l'istituzione del matrimonio è un'istituzione che deve essere riformata, almeno per come è in Italia, ecco, sì. Al momento. È un'istituzione vecchia, per cui anche per gli eterosessuali, cioè, voglio dire, l'unica forma esistente in Italia. Diciamo che questa formula del matrimonio è molto differente in Scandinavia, è molto più diciamo improntata certamente alla tutela, ma anche diciamo all'eventualità che cioè, le coppie si possano separare, ecco, non c'è tutto questo vincolo come c'è in Italia, no? Forse anche legato a un contesto religioso, no? Per cui la famiglia ha una certa valenza. Mm-hmm. Certo è che ci sono tanti amici nostri, anche omosessuali, ma anche eterosessuali, che ci dicono: ma che cosa, perché fate questo passo? Proprio voi che avete la possibilità di non sposarvi, no? Che nessuno vi obbliga a fare questo passo. In realtà è un diritto quello di cui chiediamo. Sì. Il riconoscimento, il diritto di fare una scelta, per cui noi scegliamo di sposarci in Svezia e facciamo un po' questo passo, anche un po' di dimostrazione non violenta della richiesta di un diritto. È vero appunto che in Italia se uno sta insieme a una persona da una vita non ha la possibilità di essere tutelato anche a livello sanitario, fiscale, insomma ci sono, a prescindere dall'amore che può legare due persone, ci sono anche tante cose che sono importanti e che nel caso delle coppie omosessuali non esistono. Ecco Lorenza, parlando proprio del caso del Nord Europa, e che spesso è un faro proprio per quanto riguarda questioni di società civile, ecco, da dove nasce questa attitudine per i paesi del Nord dell'Europa? Ma Ingrid su questa cosa secondo me risponde meglio. Bene. Ingrid, allora dici un po', intanto benvenuta. No, ma ho parlato anche prima e che probabilmente non mi sono presentata mentre rispondevo. Comunque, da dove nasce questa attenzione? Beh, sicuramente come tra l'altro mi è capitato di scrivere nel blog una cosa del genere, sicuramente non non si tratta di una diciamo una superiorità innata, no? Che per cui spesso si sente dire gli svedesi, gli scandinavi sono avanti perché non c'è niente da fare, noi non ci arriveremo mai. Ecco, io questa cosa la detesto, perché in realtà gli svedesi, i primi del Novecento, diciamo, non certamente non erano le famiglie erano abbastanza patriarcali, e i passi avanti sono stati fatti molto velocemente perché delle istituzioni si sono prese carico di fare dei cambiamenti, anche quando la popolazione non era affatto pronta. Quindi diciamo che il cambiamento deve avvenire dal punto dalle istituzioni, e quindi deve essere promosso. Certo è che se viviamo in un paese in cui l'omofobia si chiama omofobia istituzionale, ecco, dove l'omofobia è istituzionalizzata, è chiaro che insomma dove vogliamo andare, ecco, cioè l'educazione della popolazione è una cosa che parte dalle scuole e ovviamente viene propagata dalle istituzioni, quindi viene garantita e propagata dalle istituzioni. Quando manca questo... Allora, da una parte c'è questo progetto che immagino tenda anche a creare una sorta di comunità anche che rivendichi diritti come questo, e dall'altra ci sono episodi abbastanza diffusi di violenza omofoba, e volevo chiedervi anche qual è la situazione a livello istituzionale oggi in Italia, ecco, su questi due punti. Allora, noi stiamo portando avanti questo blog, questo progetto appunto, che è composto dal blog, dalla pagina Facebook. Adesso abbiamo iniziato proprio oggi una campagna di raccolta fondi, perché vogliamo realizzare anche un documentario che racconti tutto il percorso dei preparativi del matrimonio e il matrimonio stesso. È un po' il pretesto è quello di raccontare la nostra storia, per raccontare appunto una battaglia per i diritti civili e appunto la situazione che è in Italia in questo momento. Noi stiamo ricevendo tantissime email da persone che non conosciamo, che ci fanno, oltre a farci gli auguri, ci incoraggiano a continuare questo lavoro, perché c'è bisogno di quello che insomma stiamo riscontrando è che c'è bisogno di qualcuno che ci metta un po' la faccia e che mostri a quest'Italia che parla di matrimoni omosessuali come se fossero una cosa avulsa da qualsiasi contesto, che i matrimoni omosessuali sono una cornice dentro cui stanno persone che hanno storie, che hanno vite, che hanno amici, hanno famiglie. Per cui invece di solito si sente parlare del matrimonio omosessuale dai telegiornali, dai politici che la usano un po' anche in maniera strumentale spesso. Sì. Per cui quello che stiamo facendo, crediamo e lo crediamo perché ce lo stanno dicendo tante persone, è importante dire che esistiamo non come fenomeno, ma perché siamo cittadini italiani che hanno un certo tipo di che richiedono un certo tipo di diritto, e non c'è niente di male. Ecco, quello che invece fino adesso la tendenza ci sembra sia stata un po' la tendenza, che ci si sentisse sempre un po' in colpa di chiedere qualcosa per cui l'Italia non era pronta. Le domande che si sentono spesso nei talk show, no? Quando fanno queste interviste: ma secondo lei gli italiani sono pronti? Non c'è bisogno di essere pronti, c'è bisogno di avere appunto il riconoscimento di qualcosa che è un diritto di fatto, come lo è nella maggior parte dei paesi europei, tranne appunto l'Italia, la Grecia e poi adesso appunto la Polonia, paesi dell'est. A livello istituzionale questo appunto per adesso se ne sta parlando molto, perché ci sono state prima le primarie, poi le politiche, adesso c'è la corsa a cercare di formare un governo per capire che cosa si riesce a fare, per cui è sempre un po' l'impressione è sempre un po' che questo sia un tema che viene utilizzato quando fa comodo, e sì. Il problema è che a noi non serve qualcosa che si sia utilizzato così ogni tanto, ma noi abbiamo delle vite che continuano e che hanno esigenza di aver riconosciuto un diritto importante. Bene, allora ricordiamo in finale il sito internet per dare un appoggio a questa campagna per realizzare un documentario in crowdfunding. Lei disse sì, come sono i riferimenti, o Lorenza o Ingrid? Allora, il nostro blog è leidissesi.net. Da oggi su produzionidalbasso.com sì, è possibile cercare il progetto Lei disse sì e sostenere prenotando una o più quote. Una quota sono 10 euro, chi vuole può appunto prenotare queste quote e se raggiungeremo le 1000 quote che abbiamo ipotizzato di raggiungere, vi chiederemo alla fine di pagarci attraverso forme bancarie, però per adesso è diciamo un sostegno che vi chiediamo di fare. Lorenza e Ingrid, un abbraccio e a presto. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ingrid Lamminpa e Lorenza Soldani per il progetto di documentario in crowdfunding Lei disse sì. Paolo Barberi, che insieme a Riccardo Russo sono i registi del documentario The Well, Voci d'acqua dall'Etiopia, di cui ci siamo occupati più volte, ma che uscirà al Nuovo Cinema Aquila domani 22 marzo in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, ma non sarà l'unico appuntamento. Paolo, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Allora, stavo ricordando anche questo documentario quest'estate lo abbiamo anche premiato, visto che insomma faccio parte della giuria del Clorofilla Film Festival, è uno dei lavori che abbiamo premiato. Allora, è una bella storia, raccontacela un po' in breve per chi non la conoscesse. Dunque, noi abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto più o meno intorno al 2008, quando si cominciò a sviluppare in Italia il dibattito che poi è sfociato nel referendum sull'acqua pubblica. E quindi cercavamo un esempio che potesse un po' in qualche modo rappresentare questo dibattito come acqua, per l'acqua come diritto umano, piuttosto che semplicemente come risorsa da sfruttare. E siccome ci è capitato proprio quell'anno di andare in Etiopia a girare un piccolo documentario su dei produttori di caffè, siamo capitati in questa piana al confine tra Etiopia e Kenya, che è la piana dove vivono i Borana, che è la popolazione che gestisce questi pozzi scavati nella roccia e che hanno questa gestione dell'acqua assolutamente orizzontale, per cui diciamo a nessuno, nemmeno al nemico, può essere impedito di bere. Ci è sembrato un esempio calzante del fatto che spesso le soluzioni dal basso che noi non vediamo, per una volta tanto, gli esempi virtuosi vengono sì, dai cosiddetti paesi sì, in via di sviluppo, e quindi insomma abbiamo deciso di fare il documentario. Ecco Paolo, due punti mi sembrano proprio cruciali all'interno di questo esempio virtuoso. Uno è che c'è una turnazione degli abitanti della zona per lavorare al trasporto dell'acqua da una vasca all'altra, da sotto a sopra, e c'è una turnazione poi nell'utilizzazione. E l'altro punto è, come dicevi prima, non c'è nemico che tenga, nemico tribale che tenga, l'acqua è un diritto di tutti e tutti hanno libero accesso al pozzo. Ecco, questa storia esce in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, una data importante perché come molti dicono la prossima guerra probabilmente sarà sull'oro blu, cioè sull'acqua. Sì, diciamo che l'attenzione sull'utilizzo dell'acqua come diritto insomma va sempre mantenuta alta, e quindi noi, soprattutto noi, non perdiamo occasione per insomma poter pubblicizzare varie iniziative, per esempio questa proiezione che facciamo il 22 marzo, che è la prima proiezione di una serie che poi diciamo verrà distribuita in vari cinema in Italia, la facciamo col Comitato Romano per l'Acqua, proprio perché ci piace riuscire a, molto spesso siccome il posto dove abbiamo girato il documentario inizia apparentemente è molto esotico, poi soprattutto vieni quasi ipnotizzato dal fatto che queste popolazioni per raccogliere l'acqua fanno queste catene umane, e mentre fanno queste catene umane cantano, facendo una fatica non indifferente. Sì. Però la questione proprio centrale secondo noi è che il punto di contatto tra la nostra cultura e la loro è proprio il fatto che siamo noi che dobbiamo riavvicinarci alle nostre risorse, così come fanno loro, perché ogni membro della comunità è responsabilizzato rispetto alla risorsa che poi è di tutti. Mm-hmm. Quindi, insomma, fra l'altro quest'anno le Nazioni Unite hanno deciso che il 2013 è l'anno mondiale dell'acqua, quindi insomma quest'anno è un buon anno per fare tam tam su questo tema. Senti Paolo, il vostro approccio evidentemente è apprezzato, nel senso il vostro documentario, che è del 2011, quindi già ha una certa esperienza, ha fatto un giro internazionale, diversi festival, ottenendo anche molti riconoscimenti. Sì, anche questa è stata una cosa interessante, nel senso che noi siamo partiti, diciamo, piuttosto in sordina dall'Italia, senza avere particolari riconoscimenti, anzi essendo stati ciccati, non so se si può dire, si dice così, da numerosi festival importanti. Dopodiché abbiamo cominciato ad essere proiettati, prima a Buenos Aires al Festival dei Diritti Umani, poi a Parigi al Festival dell'Ambiente, e alla fine, dopo tutto questo giro, come si dice a Roma, di Peppe, siamo ritornati in Italia, abbiamo fatto Cinema Ambiente, abbiamo fatto ormai credo una novantina rotti festival. E per cui diciamo è stato faticoso partire dall'Italia, fare il giro fuori e poi ritornare, però comunque spero ne sia valsa la pena. Sì, e poi ecco, parlate di un piccolo caso che però a vedere dai festival dove siete stati selezionati e dai riconoscimenti ottenuti è un caso emblematico. Ecco, qual è l'atteggiamento non solo dei giurati ma anche del pubblico straniero rispetto alla tematica? Ma guarda, il per esempio la domanda cruciale che quando il pubblico vede il film poi ti fa durante i dibattiti: ma questi che fanno questa fatica per ore e ore, ma non potrebbero installarsi una pompa a motore oppure una pompa a energia solare e sdraiarsi e prendere il sole? Però in realtà poi viene quasi naturale la risposta, nel senso che effettivamente è proprio la posizione d'ascolto la caratteristica del film, nel senso che molto spesso nei paesi, soprattutto in questo tipo di paesi, in Africa, tu vedi delle soluzioni calate dall'alto, che poi di fatto che vengono spesso dall'Occidente e che però molto spesso non funzionano. Mentre invece questo è un esempio virtuoso che secondo me va ascoltato, cioè qualcosa che noi dobbiamo imparare da loro e non qualcosa che noi andiamo a carpire perché per il nostro sguardo, no? che coglie solo le cose esotiche. È proprio importante assorbire un sapere che loro hanno e noi abbiamo perso. Mm-hmm. Perché poi la cosa che tutto il pubblico nota è che mentre nei nostri paesi l'acqua molto spesso le fonti sono privatizzate o utilizzate a scopo privato, lì invece l'acqua, che è quello che ti fa sopravvivere o morire durante i periodi di siccità, è esattamente quello a cui tutti hanno diritto, quindi insomma è una bella differenza. Eh sì, anche perché quello delle pompe è un problema che affrontate anche nel documentario, nel senso si crea poi comunque il problema delle fonti energetiche per farle funzionare queste pompe, e poi c'è una ristretta cerchia di detentori della pompa poi che del modo per far fruire l'acqua agli altri, e anche poi una sorta di dipendenza, ecco, comunque dalla tecnologia straniera per realizzare questi progetti. Insomma, tutto invece a contrasto con questa auto-organizzazione dal basso che mettete in evidenza voi. Sì, esattamente, c'è una frase che dice uno dei personaggi durante la fine del film, che è proprio questa, cioè quando tu vai al pozzo a motore paghi e devi pensare solo a te stesso. Sì. Invece con i nostri pozzi tu sei costretto a tenere presente anche l'altro. E mi sembra, insomma, una frase molto bella. Eh sì, fa la differenza. Paolo, avete un sito internet per il calendario di proiezioni? Sì, chiunque volesse avere informazioni sulle prossime proiezioni può andare su www.dewell.it. Benissimo. Allora, un abbraccio, è stato di nuovo un piacere e a risentirci presto. Allora, grazie ancora e a presto. Ciao. Ciao. Paolo Barberi e Riccardo Russo, registi del documentario The Well, Voci d'acqua dall'Etiopia. Abbiamo sentito Paolo Barberi. Per quanto riguarda l'uscita a Roma il 22 marzo prossimo, cioè domani, al Nuovo Cinema Aquila per la Giornata Mondiale dell'Acqua. Immagino anche alla loro presenza. Gaetano Di Vaio, ben ritrovato. Salve, buongiorno. Come va? Buonasera, tutto bene, tutto bene. Allora, interdizione perpetua, parliamo nuovamente del tuo documentario che era stato presentato al Festival del Cinema di Roma insieme ad altri due lavori, un altro documentario e un cortometraggio. Avevate fatto una sorta di gruppo Scampia, perché questo lavoro si svolge a Scampia, giusto Gaetano? Sì, sì, erano, nel caso del Festival di Roma erano tre film, due documentari e un cortometraggio, tutti e tre girati a Scampia, tre punti di vista diversi su Scampia, uno interno, due esterni, cioè di registi che venivano da fuori e raccontavano uno spaccato del territorio. Tra l'altro il corto ha appena vinto il premio speciale della giuria in Asti d'Argento, Ciro, il terzo canariello, che nasceva da un laboratorio con 100 territoriali mammut, quello di Scampia. Allora, raccontaci un po' di Interdizione Perpetua, che diciamolo, sarà all'interno alla rassegna, la nona edizione di Italia Doc alla Casa del Cinema qui a Roma, creata da Maurizio Di Rienzo, il 27 e il 28, poi il 30 e il 31, con te presente al dibattito che sarà legato alla proiezione del documentario. Raccontaci un po' di questa storia di Interdizione Perpetua, Gaetano. Beh, intanto stasera al 5 lo presentiamo al Bisesta a Bari, tra le altre cose, adesso sto andando a Bari per la presentazione, poi la settimana prossima, appunto, dove dicevi tu, sarà alla Casa del Cinema. E niente, l'Interdizione Perpetua fondamentalmente è un modo per raccontare un pezzo di umanità, a mio avviso, interdetto, cioè persone che difficilmente avranno nella loro vita possibilità di accedere ai diritti più elementari, diciamo, ma veramente quelli più elementari, di quello si parla in Interdizione Perpetua. Quindi anche il titolo stesso, un titolo, come dire, seppur duro, però come dire, è l'amara realtà, anche se poi il film comunque cerca di mettere in luce anche quegli aspetti positivi, qualche minima speranza in ogni caso. Allora, il protagonista è uno dei protagonisti poi delle lotte storiche a Napoli e non solo, che insomma è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per le lotte popolari. Allora, guarda, forse in realtà in Interdizione Perpetua io più che altro racconto persone che raccolgono ferro vecchio per strada, gente che si rivolge alla Caritas per avere un minimo di spesa, tipo pasta, olio per armi, mentre invece l'eroe a cui facevi riferimento tu è nell'altro film Sette Nostre, è vero. Lui, in effetti è Vittorio Passeggio di Scampia, che per 30 anni ha portato avanti delle lotte sul territorio per l'abbattimento delle famose vele, no? Sì, famose vele. È vero, avevo fatto tutto un insieme di rispetto ai vostri lavori. Chiaramente, essendo tre prodotti che hanno girato assieme, quindi si può rischiare un po', diciamo, di cadere in confusione, però essendo poi tutti e tre film su Scampia, giustamente chi li vede può confondersi, diciamo. Senti Gaetano, e allora queste storie, piccole storie che hai voluto raccontare, ecco, raccontaci un po' quali esempi hai voluto testimoniare con il tuo documentario. Dicevi chi raccoglie i materiali ferrosi. Certo. diciamo che nel mio film ho cercato anche di portare un punto di vista diverso su quello che è stato anche lo scandalo dei rifiuti a Napoli, no? Sì. Dove persone, sia napoletani sia rom, raccolgono per strada frigoriferi, lavatrici, a volte cercano nei cassonetti. Queste stesse persone vengono fermate perché secondo la legge raccolgono rifiuti speciali proibiti, e poi questi rifiuti speciali sarebbero sicuramente la lavatrice, per dire, e vengono sbattuti a Poggio Reale. È una cosa abbastanza assurda perché, come dire, mentre Napoli è stata... Francesco Rosi fece il film Le mani sulla città, io sogno un giorno di poter raccontare la città sotto i piedi, più che le mani sulla città, perché su questo, a questo siamo finiti. La cosa allucinante è che mentre tutti conoscono quello che è accaduto a Napoli negli ultimi anni, nel frattempo questi poveracci, solo perché sono presi a raccogliere dalla spazzatura un frigorifero vecchio, venivano fermati, arrestati, sequestrati del furgone, verbali per 10.000 euro e 10 mesi di prigione a Poggio Reale. Io lo trovo scandaloso, non solo, ma poi non resta a capire come fa un magistrato a infliggere una pena così dura ad uno che va a pigliare, vorrei capire se questo è furgone, una multa, vorrei capire, ma addirittura sbatte la promessa a Poggio Reale. Spesso poi padri di famiglia con bambini da crescere e quindi poi devono anche subire l'allontanamento dei figli perché magari sono stati in prigione e quindi poi intervengono i famosi servizi sociali che nel nostro paese non ne azzeccano una. Sì. Come dire, ultimamente ad esempio ai quartieri spagnoli è stato allontanato un bambino da Napoli e sarebbe stato a Campobasso, impedendo ai genitori di vedere il bambino, e la motivazione che hanno dato i servizi sociali di Napoli, sai qual è? Perché a Napoli non ci sono strutture per farlo accogliere, e allora non te lo pigliate. Se a Napoli non ci sono strutture per accoglierlo, non capisco perché lo sottraete alla famiglia, perché non ci sono i soldi per aprire queste strutture, benissimo, allora non lo potete sottrarre alla famiglia, nemmeno voi siete in grado di fare il vostro lavoro. Se i genitori non sono in grado di fare i genitori, altrettanto voi istituzione non siete in grado di fare le istituzioni. Certo. Gaetano, senti, queste palesi contraddizioni, qual è la lezione che se ne trae? La lezione, scusa? Che se ne ricava da queste contraddizioni così evidenti? Guarda, io non so se esiste una lezione, quello che ti posso dire, io personalmente, poiché oggi posso seguire degli strumenti, faccio il produttore, sono diventato un piccolissimo autore, regista, io provo a portare un punto di vista completamente interno, sì. Nulla di più. Guardo a un sottoproletariato, a mio avviso, come dire, massacrato da un sistema che è assolutamente oppressivo, qualcuno di questa maniera che purtroppo spesso non sa leggere né scrivere, e che poi vedi è più facile beta sia della camorra sia di personaggi con idee politiche strane, potrei anche dirlo, ambienti di estrema destra, fanno leva su questa povera gente, su questa gente che magari non ha gli strumenti critici per valutare certe cose, e quindi diciamo che sfruttano un sottoproletariato che spesso finisce con l'imbarbarismo. Sì. Senti Gaetano, allora ci sarai anche tu a queste 4 giornate di proiezione alla Casa del Cinema qui a Roma, interdizione perpetua per la 9ª edizione di Italia Doc. Io ti abbraccio Gaetano e ci spero di risentirti. Grazie. Presto come sempre. A presto e saluto a tutti gli spettatori. Ciao Gaetano. Ciao. E questo era Gaetano Di Vaio, e con lui concludiamo la puntata di questa settimana per Visionari. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info. Alla voce trasmissioni Visionari trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 21 marzo, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, gli altri appuntamenti in giro per l'Italia tra festival, rassegne e proiezioni, e poi il link per riascoltare la puntata precedente, l'archivio del 2013 e del 2012. Per comunicare con noi gli SMS in diretta 342 357 4357, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. c'è anche la pagina Facebook di Visionari.